calcio pugilato e saliamo sopra il ring. Muori prima, non tra 7 giorni, tipo The Ring. Se ammazzo qualcosa, io la noia, tu la gente. Io entro con la trombetta, tu oggetto contundente. E dalle tribune volano petardi e scooter. Stadio crudo più di tutti i film di Freddy Krueger. Se la tensione non esiste, solo a livello sportivo accendo un cielo. Se torno a casa vivo, ormai è diventato un ring, un campo rettangolare. Se durante il gioco tifano o si stanno a strangolare, ormai è sport nazionale, il calcio pugilato. Perché la curva nord è una curva sud, un giovane ammazzato. E magari era un bravo ragazzo attaccato alla famiglia, che si sfogava allo stadio, non si attaccava alla bottiglia. Andare allo stadio e tifare la propria squadra, e magari non tornare a casa perché la vita è ladra. Io non concepisco che se vai allo stadio muori, che c'è la tifoseria bastarda che alla fine ti aspetta fuori. E lo Stato prende le misure contro la violenza, ma il calcio è come la coca, fra causa di bellezza. Se sei un tifoso e vai allo stadio colorato come un semaforo, e per sapere se vivi o muori devi chiedere ad un oracolo. Io il calcio lo vedo come sport, non come spettacolo. No violenza negli stadi, ci vorrebbe un miracolo. Calcio pugilato e saliamo sopra il ring. Muori prima, non tra 7 giorni, tipo The Ring. Se ammazzo qualcosa, io la noia, tu la gente. Io entro con la trombetta, tu oggetto contundente. E dalle tribune volano petardi e scooter. Stadio crudo più di tutti i film di Freddy Krueger. Se la tensione non esiste, solo a livello sportivo accendo un cielo. Se torno a casa vivo, siamo al 2 di febbraio 2007. La City muore, molta gente in manette. Del tipo che pago il biglietto, vado a vedere chi si sfoga allo stadio perché uccide per mestiere. Non siamo in Inghilterra, fra, non ci chiamano hooligan. Sulle vulve lancia cori, intonano la morte in musica. 11 novembre, Gabbo Sandro in paradiso, spacca rotella colpevole, verdetto ormai deciso. Abbiamo e Pedro sfondato con un combino. Taranto lancia sassi, battono masse, uccide l'assassino. Dalla vulva SOD che parte sto coro unito. Politicante infame, a te mostro il terzo dito. Fede al calcio, fede al calcio, ormai discorso uguale. Uccidi gente in autogrill e dopo muori in tribunale. Il governo vuol portarci indietro a 100 anni fa. Non cambierà sto stato, il che governerà un capo ultra. Morti negli stadi per tifare una nazione. Non è bello morire per continuare una passione. Oggigiorno andare negli stadi è un suicidio, come uscire per strada e far casino nel meriglio. Per questo dico no alla violenza negli stadi, perché non ci prendi per il culo, non siamo dei neonati. Gente assassina, ti mandano al caposanto e continuano ad ammazzare senza alcun rimpianto. RC timore sotto gli occhi di Sicilia, e chi non lo dimentica è solo la famiglia. E intanto le alte cariche restano a guardarsi mentre gli ultra continuano a menarsi. Petardi, fumogeni e bombe volano dalle tribune per uccidere carabinieri e gente comune. Alla fine non si conclude proprio per niente, solo morti ammazzati che forse non c'entravano niente. Calcio pugilato e saliamo sopra il ring. Muori prima, non tra 7 giorni, tipo The Ring. Se ammazzo qualcosa, io la noia, tu la gente. Io entro con la trombetta, tu oggetto contundente. E dalle tribune volano petardi e scooter. Stadio crudo più di tutti i film di Freddy Krueger. Se la tensione non esiste, solo a livello sportivo accendo un cielo. Se torno a casa vivo,